venir, si priare dell'asse, per cielo misne come un proletare, niente si vuol trombetare, da ti pesgosti già sliete già. Mi par ne prago ne stoise, la caccia ne si ciar ne fugisce, l'amore cuccia griet malarisce, e ma di adotti ma, sembra e mode, e fritari demà. Uch fac ne vine straita da ziba, es croit i dorra e tritari tema, se scruat sot, ma storre ne pape. Amma, zia da ziba, parle fragole stoise, la cacchina si siare ne fucisce, l'amore di cuccia grida e t'avvalisce, e ma zia tozzi va, se verrà e mode, e gridare da me. Imperialismi torp levdekie, revisionismi torp levdekie, sulmoni stabin borges, avni revoluzioni sinuk malet, eroi samalet, litarimo, sogu in enver, revoluzioni,